se mi cerco l'SSD e glielo piazzo, vedrai che viaggio ancora meglio. Vabbè, conveniente, si tocca la... Ha fatto bene, si è infestato. E allora si tocca la gugliupa. E ma è arrivato da Zeus. Beh, altro, ci ritiriamo la ghiglia, andami. Capito? Apri il garage, in baga, te vada a 50 euro, poi lo reghiffo e non ho un problema. Ci capirai, Irina, quando i millimetri di te, c'è poco ma sicuro. Vabbè, sono più secchi, sì, ma cari di carica, adesso sei troppo un tempo. Come non sarei avviato, capito? Ma mi sa la fotografia che nel bosco sono stata leggendo io. Che gliela giuvizia. Sono compresciato perché era la giuvizia. Ma insomma non ce l'ha fatta il sindaco. Manco per i coglioni, non ce l'ha fatta. Paga, ecco. Capo di bubù, sai. Ragazzo. Già conosci di tutti i carattere. Ma dai, dai. Ma dove sarà le puttivecci, uè? Vabbè, però. Che vuoi fare, Anto? E gai su conto. Il problema è se non viene di guacce, se non viene. Ma non sto prendendo il barbuno, forse me. Ma cosa, lo sindaco? Io so cosa bolle in pentola. Tanto io voto non li do. Detto in faccia. Tu prendi in faccia? No, io a lui gli ho detto in faccia, non ne do a posto. Manco per i cucumeri. Non gliene do. No, no. Non mi interessa. Proprio zero completamente. Ah, cosa? Peppino? Sì, sì. Vai, Peppino, la... No, non li do, che fine? Non li do, no. Scusa, a Peppino ti ha sempre dato da mangiare, cioè, ha dato da travaglio, da... molte volte ti sogna anche, a me a mangiare mi ha dato travaglio. C'è travaglio, visto? Ma si dice nato. Troppo salvato la vita, tanto è troppo, anche troppo. Adesso basta. Ho fatto un cazzo, non ne do e boh, finito, punto. Ma come cani i dati? Così impara. Senti le profindenti, e ti bari. Ma so, dai, te la stretta. Beh, c'è una persona, cazzo, un amico, tutto quello che vuole, te lo stretto, perché offenderlo? Ma non ti compensi, beh, da te si è offeso, ma non mi piace. E allora gioco battussi, niente è fatto, a casino. Ma che nome secondo me è Roberto? Va. Vuole far fumare? Sono già quattro. Il problema che è tutto lì, tutto lì, tutto lì, però... Ah, chi? Dai, che so? Già quando mi dai il fatto. Sì, ti andi avanti, pure aereo. Allora ti guardo in barca. Me ne frega un cavolo, non mi interessa. Non me ne può fregare di me, non ci credi. Vabbè, sì, stavo un peggio di lato, eh. Io devo trovare un barca, perché che cosa? No, mi ha messo già. Pallone di trattamento di trattamento. che in un mese la voglio sicuro, sì. Cioè sei volti, in un mese. E la loro in un mese. Ah, ci vogliamo un po' di soldi, Anto. Ci vogliamo un po' di soldi, non fa. Non fa, ecco, inutile siamo lì. Non c'è trippa, no, non trippa, non c'è sostanza. Non lo metto in dubbio, però alla fine non c'è sostanza, no? Dico, allora prendi la patente di conti, ma ci vogliono almeno 3-4 mila euro. No, non occupare il bar. Non mi può fregare di meno, ormai. Avessi qualche anno in meno, poi si prova, cioè hai fatto un pensierino, passa di presa, siccome l'età avanza. Ma sarebbe stato bene. Cosa? Sì, da voi. L'ho chiamato, ma ho detto, visto che non era venuta, poi dopo ti entra con la vista, il corpo, bucano il sacco, e non so come è venuta. Ma lasciamo fare. Non è venuta. Non lo so, boh, che ha più sentito? Luna stiamo parlando. 400 euro l'una. Ah, diffusore attivo, cono 12. Poi c'è il cono 15, che costa 4,52. Quello 15, vabbè. Non è male, quello 12 è buono lo stesso, è buono, che si fa dello spazio. Attenzione, quello 15 ho commesso, ma non c'è tanta differenza. Sì, va, adesso vediamo. Ho una giubressa. Se vediamo. No, è meglio prenderli buone, da di qualità, buoni, no, è bene, che prendere la roba che non si sente. Guarda, aspetta. Vabbè, se può 800 per qua cifra lì costa. Vediamo un po' questo sito. Allora, su, ma cazzo è qua, accetto tutto. Allora, casse, mi dai i cavi, non sa cazzo è, aspetta, costavano, questo è consigliato, 800, allora, make it dump, usi di dump, vabbè, copia accessori, aspetta, come che tu cavolo, allora, ti ho una borsa per cavi, leggio, piccola asta, due cavi spicche, 5 mm, HRL, MF, e poi due casse, 878 euro. Questa è 1300 watt dalla dump, no, questa è trash, no, questa è dalla trash, poi c'è MacTump, costano, lasciami vedere, dimmi la marca tu. Sono FBT X-Lite 110 ampere, copia, supporto, cavi, borsa, 866 euro la copia. Nastro di caspita. Non lo dice qua, da cazzo sono. FBT X-Lite 110 ampere. E però non dice da quanto sono, come mai? Vediamo, c'è il video. Come c'è questo qua l'audio? Sono le CF, costano di più, controllo su eBay, aspetta, tanto c'ho la pagina dei preferiti, mixer, va bene, quello che c'ha vinto, è una bombetta quel mixer, questo qui costa, è una bombetta, 160 euro costa, c'ha Bluetooth, c'ha tutto, c'ha gli effetti, bello, bello, sì, proprio quello. Allora, ci sono l'RCF Art 710 Ampere MK4, copia a casa attive, 10, c'è scritto qua 10, 1400 watt, new, nuovo, vabbè, nuovo, 1400 euro. E tu, via, sì sì, solo una solo è 750 euro. Comprare noi per la guardia. quella RCF Evox 12, sistema colonna sub più satellite, 1400 watt, perfette, band live new, 2150 euro costa. Quale c'è la vittoria? Quelle sono buone. Altre sono buone, la vita sono le casse. E 4000 euro li ha pagate lui. Ci sono qua, RCF Evox 12, costano 4.989 euro. Sì, è una vittoria, farà da dire. Sì, sì, è da tipo 4.000 euro, su così, ma... E poi fammi da 50 euro alla serata, ma che no. Quelle sono perfette. Rosso, sono 12, ora sto vedendo, sto pensando, si vedrà, no? Ma questa me la deve vendere per forza, se no, ciao. Poi ci sono le RCF AT 715, copia diffusori attivi, con da 15 picco nuovi, garanzia 3 anni, costano la coppia RCF 1349 euro. Ma tu moto li hai pagate? Le mie? Sara, ma con la sorella. di famiglia. Ah, battissimo, capisco. Non fare karaoke. Iaia, va bene. No, è partita, ma anche quelle altre più piccole che non suonano bene. Hanno la partitura, ma non. Ah, procede, senta me la palma di passare di sotto di Alghero. Domenica ho visto che è l'8 di dicembre, no, è di venerdì. Io questo, diciamo, li faccio di sabato gli anni, che è 49 anzi, 49. E a voglia, e poi ci cuda la faccia. Sì, bravo, ancora, voglia nulla. Se faccio questo tu ma te la sei bucina, tu faccio. E non mi dico, ui, se mi rinvede di mai. Tu, date una vera una staffa, mi fa pulire il gas, già di. Vediamo, allora. Adesso ti faccio vedere, vabbè, ti faccio vedere, vabbè, hai visto il mixer di vinto, cioè, va bene, ma mi ha fatto un cazzo di infiniti, vabbè, io penso che pompa, tanto devi fare musica, non devi fare spettacolo, se devi fare spettacolo, rimpenditi, a me per spettacolo non ci devi fare, allora, aspetta, lascia vedere, mix, adesso non ricordo il modello, ma ce n'è uno Yamaha, seconda mano, 160 euro. Spiccicato, cazzo, costa 50 euro in più. Però dobbiamo vedere perché. Facciamo così, allora, 140 sì, vediamo un po' il venditore com'è io vado avanti che la 4.777, ne ha pochi, non ne ha molti, vediamo un po' questo qua, che costa qualche qualche città in più. Lascia vedere. Questo ne ha 12.000. Non viene comprato da questo qua. Ma è bellino, mi altro. Sì, la cavettina non la posso comprare. Altro. Che cosa? Non ho capito. La cavetteria. Apreme musica. Apreme musica, la puoi prendere. Se ti porto io, ti trattano anche a me, perché a me mi conoscono. Adesso vediamo, come sono i preferiti. Mari me lo do prima di natta. Qua prendi il mix che hai qui sopra. Thank you. amano finale. Ma va bene, Mianzo, perfetto, una bombetta. Io gli ho messo anche la lampadina blu. Va bene, no, mi è originale dalla casa. Ah, io l'ho messa blu. Ah, non mi darò mai di questo apparecchio. Ascolta a me, ma non l'hai comprato quello? No. E alla fine, vabbè, questo qua l'ha già messo bene. Solo chi ce l'aveva, non te ne va conto, ecco. Vediamo un po', aspetta, dammi 5 secondi che attacco l'altro, aspetta. Non vuoi un Borromeo. Aspetta 5 secondi, attacco il... come si chiama? Il... va, il Typhoon. Mi senti, Anto? Anto? Sì, dimmi. Mi senti, questo è il Typhoon. Va bene, lo stesso. Va bene, sì. Sveglia. Aspetta, ma sono lì. Intanto l'attacco. Perché se rimane troppo fermo, se devi ascoltare le cose, spallarci. Allora, ma fa il culo. Oh, senti, se non l'attacco sta troppo tempo fermo, un casino. Cazzo, ci sta girando. È buono il tempo. Questo lo stavo vendendo. Sai, detto, ma... sì. È abbastanza nuovo, non è vecchio. Aveva i suoi anni, anche abbastanza messo bene. Solo che alla fine lo vende, però non c'è più gli apparecchi russi. Ne sto domando, c'è una lampadina bianca invece. C'è un attimino. Fiammante. E non usi? Ma questo qua è? Ma che è quello che c'ha l'ecco? Ah, no, quello l'ho venduto. Ah, quello lì è quello che abbiamo noi. Mia memmi. Poi, buonasera. Ciao Antonio, ciao Luca. E quanti canali è Luca? Questo qua ne ha... c'ha banda B, banda C, banda D e banda E. 5 bande, praticamente. 20, 200 canali. Esatto, 5x4 20. Vabbè, poi ci sono mezzi canali. Cos'è, stazione fissa? No, veicolare. Capito. Frequenzi vetro già pure. No, sto mandando la foto, aspetta. Sì. Ho trovato la foto. Sì, ma è senza costo, senza frequenzimetro. Vabbè, è quattro stato quello lì? No, lo stavo vendendo quello, boh. Ho detto, è quattro stavo vendendo. Ma non è tuo ciò qua, ma è il tuo, è Luca. Sì, sì, sì, è mio, Tony. Ce l'ho qualche anno. Non so quanti anni vi lascio, boh. Vedi anni. Libri per lì, me lo stavo per vendere, poi, boh. Ma poi che è abbastanza nuovo, dai. Ai suoi anni, certo, non è nuovo di pacca, ai suoi, sai, mascherina un po' così, ma non è messo male. Io già le tengo bene le cose. E questo qua, guarda, non meno di 150 euro. E questo avrà un 15 anni circa, così è. Questo qua c'è doppio finale. Dissipatore dietro, non è come il 3009. Sì. Io l'ho messo a vendere. Per un modo meno di 150. A me mi stanno dando 180 un coso, cos'era? Un samurai, con frequenzimetro e più canali di quello, 5-6 bande. Ah, questo va bene, Tony. Sarà da fare un piccolo riallineamento a cosa, a banda laterale. Io non uso, ma me la fuggi nulla. Anche il mio è nuovo, bisogna fare un riallineamento. Riallinearlo mi dà. Qual è questo qua nero? Sì, una piccola controllata, ma è a posto la parita. Ecco. Antonio si è pulsato. Anto! Si è spostato a mangiare. Io mi sono pentito per andare al Galaxy. Non si danno. Lo so, vabbè. Ormai una cazzata l'ho fatta. Adesso vedo se riesco a vendere questo, il Presidente, 80 canali. sono pensierino. Ma va bene, Tony, ha voglia. Vediamo un po', aspetta, si passa in banda. Vabbè, io non ce l'ho qua la banda, questo è tutto 80 canali AM e basta, ma quale FM non c'ha nulla. Ma è bellino perché c'ha lo switch rotondo, capito? Scusa, il canale, stazione fissa, tra l'altro non c'è bisogno di armettatore. Ma che il mio? No, il mio, quello che sto usando adesso. Ah, sì sì. Ah, questo già va bene. E non voglio incolpare i baracchini, capito? Se riesco a vedere questo, ci faccio un pensiero per il tuo. Ma a tu gli hai parito. Mi sono andato un attimino. Ah, scatto fa, dai. Sì, veramente di pace il frigo, E te? Tu mi pigli un da troppo, così. No, io vado alla pagoda a pigliarle. Oh, senti il video. Ma l'audio che abbiamo mandato. A me? Sì, di quella ragazza, sì. Fidati. E qua! Ah, mi spiace, E beh, e beh! Tu hai visto, è mezzo di muoio di marci! E beh! Con questo gioco! Cazzo, io cazzo ci diventano in una, boh, allucinante! Tu vuoi mandare in marcia di giù, sai? Se la cagata in no! Che mi fa bene male che cose. E beh, Manuè. E beh, Tony, passa a tutti. Ah, Manuè. Oggi non si lavora, no? Sì, mi è passata a fare 15 ore di notte. Ma poi tu ci eravamo, di che hai pensato? Io ci sono di riposo, oggi è domani. Ah, che apprezzo. Andà bene, bene. Se pari andare, va bene, di notte. Oh, scusate, mattina vado a dare una sciacquata, dai, che qui tra un po' esco. Arrivo a marzo. Arrivo subito, va. Arrivo a marzo, Manuè. Sole, vento, Eva. Vabbè, dai, caldo c'è caldo ancora, freddo non è freddo. No, grazie a Dio se sta bene. Avanti, tu. Si è tentato a passare la luce. Antonio. Ciao, Manuè, buonasera. Tanto, buonasera. Certo, buon freddo di sera, ma sta te ne varia. Sì, sono staccato anche. Sono staccato. Cazzo, c'è stato l'azione, sì. No, che è buono come radio, Manuè. Ma prima era stato l'azione. Staccato, no. Adesso ti sento bene. No, no, non so, magari fai una pena, ma... Io mi sono fatto altre 3 teglie e passo al forno, 3 a ridotti e 3 a basso, sì. Io ne ho una teglia rotonda in freezer, basta, non ne posso più. Me che poi non metti più tanta quella macchina, no? Cazzo, c'è sempre fermentato, sì. Avete parato in due. Sempre fermentando, sai, Tony. Io sto sempre dimagrendo. Io sto dimagrendo. Ma dove? Ma, fine di dire, amico, tu mi ci avanti tutti quanti. Io dimagrito, sì. Dei 20 kg li ho scesi di più, veramente. Sì. E lì che ti ho visto a poche macchine, a me. A Giumai non bastava lo sportello dell'ubidistrino che andava a vedere la faccia. Ma mi sa tu che lo sa. No, no, a Giumai non ho visto. Altro, non me lo dia a me che l'ho visto quando era rimane, mi ha salutato pure. Ma di un'altra a me basta rimanere in bucco che vengo. Sì, sì. E mentre ci sto attento, che Dio ti mantenga. Ma quanto ti vede di più? E vabbè, già va bene così, dai. Ma è migliorato qualcosa? Prova. No, tu, Emanuele, sei migliorato. No, per me c'è lo stesso Emanuele. Ma di cosa? Emanuele, parate due. Avanti, Emanuele, cosa hai detto? Non ho capito, migliorato di cosa? Che è migliorato? Ma di cosa? Oh, di cosa tu, di radio e Santiago? No, io quasi parlo così. Era qua il 9 Radio 5. No, sei tu anche del 178. Ma io normale quando ti arrivo. Sai? Può essere troppa. No, beh, no, figurati, faccio l'antennino. Io ho alzato l'antenna di altri 2 metri, Manuè. E infatti questo vento che viene ho dovuto mettere a tettiranti, picchetto in terra, e adesso un po' muore. Un passaggio con molto più basso. La ciampa la storia. Cazzo, ora si è fatto la scala, mancate in vario. E io come ti arrivo, Manuè? Un po' leggermente meglio di prima. 9. E prima com'ero? Prima era appena più basso di segnale. E un paio di metri ho sollevato la tenda, già va bene. E beh, più alta è, più cosa c'è. Quando attacco sono con lo scala? Infatti, quante battezze ci sono, per provare. No, che bello. Cos'è dopo il 737? E beh, Tony, tu sempre qua lo stai usando? Sempre quello, com'è, buona radio sempre. Ma il microfono originale suo? Sì, è il suo originale il microfono. Sì, è bene, è bene. E non riesco a attaccare lo sciure qua, mi innesca. Vuol dire che è troppo sensibile. Vabbè, lasciamo così poi. Un per peccato di mezzo. Oggi c'è, tu sì che vales. Beati voi che lavorate, ga. E una giuragana, ga. Sono sempre per me in pensione, ga. Devi inventare un lavoro. Già ne ho che fammi a tu, perché mi chiamo Andrea Sinistra. Ma il fatto è diverso. Un conto è quando lavoravo per la provincia e di rotto fra i manichi. Ma va, diciamo una bacia all'affia, cioè gente, una bacia all'affia. Vabbè. Devo inventare qualcosa, si deve inventare qualcosa. Più di scaggio pintato. Sono sempre ben inventato in occhi, vincenti. Vabbè. Si fa qualche si può. Adesso lunedì sono impegnato. Che devo fare stesso qualcosa. Adesso di là che entra il Mattes. Ma guarda proprio, c'ho tutto, ho vinto troppa roba che è una palla, e scappa quello sì. E allora, figlioccio? Se fa un po' me, mi sbaglio un po', guardo la televisione, alle 9 mi guardo quello a canale 5. Niente, io mi voglio un po' sdraiare che mi faccio male a china. Ero in piedi a fare i soggacchi e passo al forno, gà. È magrebato, gà. Che è pittina, bubù. Vabbè, sono 5-6 file di sfondi di pasta al forno, gà. Ogni zinia, fatto un gozzo, e metti il sugo, e metti il prosciutto, e metti il besciamella, e metti il fontina, e metti il formaggio grattugiato, insomma, ti fa la gana. Vai, tu. E mo che moro, Manuè. Ui. Aspetta, da poi dice a me mi canto che vado in bocco, gioco. No, aspetta, io non c'ho voglia di mangiare pasta al forno. L'ho fatta per eventuale cose, evenienza, un po' male che non c'ho voglia di cucinare, le tolgo uno al frigge, metto il forno e vai. No, ma quasi. No, Manuè, ne ho sentiti adesso più una rotonda grande. Cazzita pesa 1,4 kg. Non ti credono, prosciutto e fontina, formaggio, besciamella, il sugo l'ho fatto un pallellone grande, cazzo che maduro, due ne ho trovato, una rilotta e una luce, 3 teglie e 3 teglie. Non ho più voglia, boh basta, adesso le metto quando si raffredda, le forze da frizza, boh basta. L'ha giocato malissimo. Ne ho messo 4 foglie di alloro, mi ha dato un bel sapore, gatto. Oggi me ne ha giovato un poco, gatto, che non l'avevo più, gatto. Quindi non fugare, è un bugare, è un Ah, vabbè, domani ti riporto un materrame, dai, per rifare gli ossi, dovrò farlo. Sempre ti ho detto dove sono io. E poi domani, esatto, domenica Manzano. Sì, e te l'arrigo, dai. E così ti fai la scorta, te ne stacchi foglia per foglia, lo metti in un coso, ti fai ciccare. Oh, allora, se tu lo metti fresco come l'ho fatto io, ti dà più sapore. Se invece lo fai ciccare, ti dà meno sapore. Lo so. Però c'è un metodo, lei. No, il mio no? Che tu pensa che Passaforo ci va ogni passata, prima c'è tutto a fondo e ci va anche il suo, e ci mette un mesolo, poi ci rimette la sfoglia di lasagna e ci muore tutto il condimento, adora lo sugo, insomma via dicendo, e insomma te consuma, il pinaggio consumato quasi tutto il padellone, a me me ne rimane un bucaretto, mi posso una bella macchina asciutta e stasera. Tu Manuel invece bagna, ne vai o non ne vai? O tu mangi salsiccia e cascio? Ah, io già la faccio, sì, ma anche la letta la faccio semplice, per la pasta, non per la lasagna. Faccio un pezzo di carota, un pezzo di cipolla e faccio andare un poco meglio. Vabbè. Niente, io ho voluto comprare stasera altro formaggio grattugiato e olio d'oliva perché l'avevo finito. Ma perché sono qua vicino e mi giurizzano non anni. Infatti devo fare le olive, devo fare l'olio, devo fare. E il mio vicino lo stesso. Vabbè. Per dire. Certo, con l'olio ho fatto, come si dice, l'olio d'oliva, non ho comparato e cazzo, è molto migliore, 100.000 volte il sapore, cazzo. Non che ho usato l'oliva che vende, perché l'index si usava in mezzo. Guarda, ce l'ho messa all'acqua. Ma l'ho messa con altro olio, con vecchio e nuovo, assieme. E allora, e tu a tu? Allora, che so, abbiamo messo uno a 0 a 7 euro un litro, Reggio Calabria, ma di mare posso comprare lontano che non so cosa si muore in mezzo, se me lo comprare giorno come si su, se sono amico mio e so come te lo faccio e so che è puro, e se me la fai, momentaneamente non l'hanno ancora fatto, giustamente devo comprare i suoi bottiglia, e i suoi bottiglia non è che sia, che è già confezionato, uno dei migliori, per carità, che c'è cosa misciare, ma... Ha fatto la lascia a Tone? Cosa? Lui ha fatto ma me lo dava a 7 adesso senz'altro quest'anno che lo fa nuovo a 8 minimo. È già buono perché lo stanno andando a 10. Anche a 10 ne ho visto, perché no? Però quello a 10 non è questo che l'ho fatto adesso. Perché molti non l'hanno neanche fatto ancora. Quindi fra, diciamo, entro metà o fine mese lo puoi trovare ultimo di quest'anno. Perché appena fatti non è un pareggio. Lo stanno andando a 10. C'è uno che l'ha fatto, che conosco io, l'ha già macinato, a 10 lo farà. E anche uno che conosco io è stato a 10, a giustare del conto. Ormai tutti quel pezzo di no. Infatti io non ne prenderei mai, aspetta di, ma proprio una dici. Ma lui, io quando stavo trabaccando, 2 anni fa ancora, no, 3 anni fa con esattezza, il mio collega gliel'ho comprato, ne ho comprato 100 litri, a 7 me l'aveva dato, quindi 700 euro, cazzo, ma Uzu l'ha girato ai vari TV, ma mi è durato un bel. Sì, lo so, lo so. Io se riesco a trovarlo massimo a 8 lo prendo, ma non 9, 8, cazzo, 9, 10, ma non vuole, ho capito che l'olio di oliva ci vuole pagare, ma cazzo. Ma noi ci mettiamo in società, ci mettiamo un capannone e ci mettiamo in società. E le pianti? Cosa? E le pianti da credibili? No. Tu mi devi rimunire sempre la mamma del caffè. La mamma del caffè. La posa lì. Poi te la posa. Quando tu fai la caffettiera, fai un caffè. Poi per pulirla, la smonti e c'è quel caffè pressato, quello che è già uscito il caffè e è rimasto la posa. Vabbè? Conservi tutto quello lì. Che cazzo, è la caffè di mai? E quindi facciamo il borotacco per il... sei in Igri. Va. Tu me ha detto. Sono un caricato. E beh, Antu, il capatente è pigliato a dire. E adesso devo dare... sono bloccato un attimo. Sto lavorando. Devo dare qualche esame e poi... fino a dire che ci vuole, poi col mappe una vecchiaia adesso. Ma esami qui da me, non devo farlo. Grazie, io dirò da cala. E allora falla subito. Manuè, oh Manuè. Dove? Ah, perché ti hai messo questa foto così strana, ti hai messo su WhatsApp? Qua è più strana. Se non faremo con tu. Io sono, che sto a fare? E qua è più magro però. Sì, sì. Va, chiama sei ciccioni. Sono io questo. Ma è più magro, beh. E che anni fa, tu devi mettere quella recente, è che non la vuoi munisci, ci vede il marrone in buco. Non ci sta nel video. Che da me vino, che mi ci dite lo che? Sì, no, siamo mai. Ok, ciao a tu. Chi tu mangi il drone, io mangio più tardi, 8 e mezzo, 9. Andate, ciao, buon corretti, saluto, ci sentiamo. Ti abbraccio nel pizzino. Tanto, sentiamo. Capito, Manuele? Tu non devi morire la fotografia giovane, devi morire la fotografia di Vandia, ma... Sì, vabbè, 5 anni sono passati, questo è il minimo 15-20 anni fa. E non ti ho coincido con il signor Fenelina, anzi anche di più. Sono 4 anni, vado 5 anni. Tu no, che va via 15-16 anni. Io ce l'ho fotografia, non mi giova, ragazzi, ce la metto e poi mi dice, mi credi il tuo cazzo papà si dimesso, mi devo la fotografia recente, infatti non ne metto per quello. Vabbè, e che ci vuoi fare? Sono in giacca, non vado di niente, mi sono poi oggi c'è quel programma a canale 5. Ecco qua. Adesso mi sento anche nel coso, nel 23 canale. Cosa? Mi sento nel 23 canale pure. Ma va a tornare il radio. Ah? Quanto ne hai adesso? Di cosa? Di radio. Ma da chi? Tre. Al 23 canale quello che c'era tu. Il 23 canale ce l'ho messo qua. Questo si chiama... come si chiama lì? Ecco, c'ho scritto qua. Opla. 1800, che se li manca, eh? È bellino mi vanno, Sì, guardo con la mano per la tempo. Questo minimo lo vendo 2800 euro. Questa gente si vende dell'esitazionato. Chi ci manca a marre mi ricudini. Ma è bellino che già esce bene, capito? Ogni tanto lo metto in moto. Ah, già è bello, quello che ti ho dato io è bello, no? C'è una mosca al volo, se la sta prendendo, Babbo, dai, ci sentiamo, che mi sta cantando. Ok, dai, ma non è, ascolta quella registrazione che mi ha mandato Luca, e te l'ho mandato anche a te, Elisabettina. Già sentito. Ok, dai, ci sentiamo, tanto beh, anche lui c'è un canale di molti, boom, boom, dai, là. Ciao, Manuè, ciao. Ma sono le parenti di là, no, Bobu.